canto trentesimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto trentesimo. Nel tempo che Giunone era crucciata per Semele contro il sangue tebano, come mostrò già una ed altra fiata, Atamante divenne tanto insano che, veggendo la moglie con due figli andar carcata da ciascuna mano, gridò: «Tendiam le reti, sì ch'io pigli la lionessa e i lioncini al varco!» E poi distese dispietati artigli, prendendo l'un, ch'avea nome Learco, e rotollo e percosso ad un sasso, e quella s'annegò con l'altro incarco. E quando la fortuna volse in basso l'altezza de Troian che tutto ardiva, sì che insieme col regno il re fu casso, ecuba, trista, misera e cattiva, poscia che vide Polissena morta, e del suo Polidoro in sulla riva del mar si fu la dolorosa accorta, forsennata la trò sì come cane, tanto il dolor le fe la mente torta. Ma né di Tebe furie, né troiane, si vider mai in alcun tanto crude, non punger bestie, nonché membra umane, quant'io vidi in due ombre smorte nude che mordendo correvan di quel modo che il porco, quando del porcil si schiude. L'una giunse a capocchio ed in sul nodo del collo l'assannò, sì che tirando grattargli fece il ventre al fondo sodo. E l'aretin, che rimase tremando, mi disse: «Quel folletto è Gianni Schicchi e va rabbioso altrui così conciando. Oh, diss'io lui, se l'altro non ti ficchi di denti addosso, non ti sia fatica a dir chi è, pria che di qui si spicchi». Ed egli a me: «Quell'è l'anima antica di mirra scellerata che divenne al padre, fuor del dritto amore, amica. Questa, a peccar con esso così venne, falsificando sé in altrui forma, come l'altro, che in là sen va, sostenne, per guadagnar la donna della torma, falsificare in sé buoso donati, testando e dando al testamento norma». E poi che i due rabbiosi fur passati sovra i quali io avea l'occhio tenuto, rivolsi da guardar gli altri malnati. Io vidi un fatta guisa di liuto, purché egli avesse avuta l'anguinaia tronca dal lato che l'uomo ha forcuto. La grave dropisia che si dispaia le membra, con l'umor che mal converte, che il viso non risponde alla ventraia, faceva a lui tener le labbra aperte, come l'etico fa che per la sete l'un verso il mento e l'altro in su riverte. O voi che senza alcuna pena siete, e non so io perché, nel mondo gramo, disse a noi, guardate ed attendete la miseria del maestro Adamo. Io ebbi vivo assai di quel chi volli, ed ora lasso un gocciol d'acqua bramo. I ruscelletti, che de verdi colli del Casentin discendon giuso in Arno, facendo i lor canali freddi e molli, sempre mi stanno in ansia e non indarno, che l'imagine lor via più m'asciuga che il male ond'io nel volto mi discarno. La rigida giustizia che mi fruga tragge cagion del luogo ov'io peccai, a metter più li miei sospiri in fuga. Ivi è Romena, là dov'io falsai la lega suggellata del Batista, perch'io il corpo suso arso lasciai. ma se io vedessi qui l'anima trista di Guido o d'Alessandro o di lor frate, per fonte branda non darei la vista. Dentro ci è l'una già, se l'arrabbiate ombre che vanno intorno dicon vero. Ma che mi va con le membra legate? S'io fossi pur di tanto ancor leggero, io potessi in 100 anni andar un'oncia, io sarei messo già per lo sentiero, cercando lui tra questa gente sconcia, con tutto che la volge 11 miglia, e men d'un mezzo di traverso non ci ha. Io son per lor tra sì fatta famiglia, e mi indussero a battere i fiorini ch'avean 3 carati di mondiglia. Ed io a lui: chi son li 2 tapini che fuman come man bagnata al verno, giacendo stretti a tuoi destri confini? Qui li trovai, e poi volta ad ondierno, rispose, quand'io piovvi in questo greppo, e non credo che dieno in sempre eterno. L'una è la falsa, ch'accusò Giuseppo, l'altra è il falso sinon greco da Troia, per febbre acuta gittan tanto leppo. E l'un di lor, che si recò a Noia, forse d'esser nomato sì oscuro, col pugno li percosse l'epa Croia. Quella sonò come fosse un tamburo. E il mastro Adamo li percorse il volto col braccio suo che non parve men duro, dicendo a lui: ancor che mi sia tolto il mover per le membra che son gravi, ho io il braccio a tal mestier disciolto. Ond'ei rispose: quando tu andavi al fuoco non l'avei tu così presto, ma sì e più l'avei quando coniavi. E l'idropico: tu di veri di questo, ma tu non fosti sì ver testimonio, là vede il ver fosti a Troia richiesto. S'io dissi falso e tu falsassi il conio, disse Sinone, e son qui per un fallo, e tu per più ch'alcun altro dimonio. Ricorditi spergiuro del cavallo, rispose quei ch'aveva infiata l'epa, e sia Tireo che tutto il mondo sallo. A te sia rea la sete onde ti crepa, disse il greco, la lingua e l'acqua marcia che il ventre innanzi agli occhi si t'assiepa. Allora il monetier: così si squarcia la bocca tua per dir mal come suole, che sia o sete d'umor mi rinfarcia, tu hai l'arsura e il capo che ti duole. E per leccar lo specchio di Narciso non vorresti a invitar molte parole. Ad ascoltarli erio del tutto fisso, quando il maestro mi disse: or pur mira, che per poco è che teco non mi risso. Quand'io sentì a me parlar con ira, volsimi verso lui con tal vergogna ch'ancor per la memoria mi si gira. E qual è quei che suo dannaggio sogna, che sognando desidera sognare, sì che quel che è come non fosse agogna? Tal mi fec'io, non potendo parlare, che disiava scusarmi, e scusava me tuttavia, e non mi credea fare. Maggior difetto men vergogna lava, disse il maestro, che il tuo non è stato, però d'ogni tristizia ti disgrava, e fa ragion che io ti sia sempre al lato. Se più avvien che fortuna t'accoglia dove sia ingenti in simigliante piato, che voler ciò udire è bassa voglia. Fine del canto 30.